Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo adesso di pensioni, no? Perché qualche tempo fa sono uscite delle notizie importanti. Sì, direi molto molto importanti, molto interessanti. Sono delle notizie che derivano da un'intesa tra i sindacati e il governo. Parlo appositamente di intesa perché chiaramente deve ancora essere comunque tutto confermato, anche se insomma la strada segnata sembra buona, almeno una buona notizia sicuramente per una buona parte di pensionati italiani. E adesso noi comunque parleremo anche un po' dei pensionati veneti, molti dei quali avranno la possibilità dal 2017 di ricevere una quattordicesima mensilità che fino ad oggi non avevano mai ricevuto. Perché sostanzialmente il governo ha deciso appunto di allargare la platea dei possibili beneficiari di appunto di questa mensilità aggiuntiva. Cosa significa? Significa che se fino appunto a quest'anno, insomma fino al 2017, la mensilità arriva a anziani con più di 64 anni e con un reddito che arriva massimo a 750 euro netti lordi al mese, adesso questa possibilità si è allargata anche per chi prende tra i 750 e i 1000 euro netti lordi al mese. Ora, per capire un attimo l'impatto che avrà questa novità sui pensionati veneti, basta che vediamo un po' di numeri. I pensionati in Veneto sono circa 1.270.000 e 200.000 di loro attualmente, già 200.000 tra questi, già prendono una quattordicesima mensilità. Non è poi una notizia bellissima, perché vuol dire che stiamo parlando di 200.000 persone, 200.000 anziani con oltre 64 anni e con una pensione, con un assegno mensile inferiore ai 750 euro e lordi al mese. Quindi diciamo insomma non pensionati con grandi potenzialità economiche. Ora, per queste persone c'è anche una novità anche per loro, anche per questi 200.000 che già prendevano la quattordicesima, perché la loro quattordicesima mensilità verrà aumentata del 30%. E quant'è la quattordicesima? Attualmente sono 336 euro per chi ha fino a 15 anni di contributo, 420 euro per chi ha tra i 16 e i 25 anni di contributi e 504 euro per chi ha oltre 25 anni di contributi. Grazie all'intesa tutte queste cifre aumenteranno del 30%. L'altra grande novità, Francesco, è che comunque verrà allargata anche la platea di chi prende appunto la quattordicesima mensilità, ovvero verrà allargata a circa altri 113.000 pensionati che fino ad oggi non la prendevano e che hanno un reddito compreso tra i 750 e i 1.000 euro lordi al mese. Ecco, a queste persone arriverà una mensilità aggiuntiva che però non sarà aumentata del 30% come quelli che già la ricevevano, ma sarà la stessa cifra che è arrivata fino ad oggi ai circa 200.000 pensionati veneti che già la prendevano. Quindi riceveranno appunto 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 euro tra i 16 e i 25 anni di contributi e 504 euro per chi ha oltre 25 anni di contributi. Insomma, è sicuramente una bella novità, perché comunque va sicuramente a integrare dei redditi che comunque sono bassi e con cui si fa fatica a vivere una vita dignitosa, quindi come associazione non possiamo fare altro che accoglierla positivamente, anche se necessario secondo noi che comunque vengano presi dei provvedimenti anche a favore dei giovani. Quindi va benissimo dei provvedimenti a favore degli anziani più indigenti e adesso speriamo che il governo si muova anche nella direzione dei più giovani e quindi insomma aiuti anche le fasce d'età più giovani. Certo. Hanno entrambi bisogno d'aiuto, quindi non vogliamo fare assolutamente una guerra come qualcuno cerca di fare tra giovani e anziani, privilegiati e non privilegiati. Noi diciamo che entrambe le categorie comprendono al loro interno fasce molto deboli che devono essere aiutate dal governo. Ecco, l'ultima cosa che aggiungo, Francesco, perché qualcuno si chiederà, vabbè, ma quando è che mi arriva questa mensilità? Infatti. Ricordiamo che arriva a luglio come sempre è successo, anche per i nuovi, devono aspettare quest'estate appunto per luglio 2017 per ricevere questa interessante mensilità aggiuntiva. Ecco, quindi magari qualcuno che era distratto, che non sapeva questa cosa, gliel'abbiamo detta, però dall'altra parte deve aspettare un anno quasi per vederla entrare in portafoglio. Vabbè, insomma. Però diciamo, Francesco, che sicuramente è comunque un aiuto che sicuramente non cambierà la vita degli anziani, però gli può aiutare anche in quelle spese, insomma, mensili, per le quali noi sappiamo che ci sono molte difficoltà. Ti faccio un esempio, ne abbiamo anche raccontato alcune, sicuramente alcune vicende anche tramite il vostro programma, e ci sono anche persone che fanno fatica a comprarti i farmaci, quindi sicuramente questi soldi tornano utili. Certo. Grazie quindi all'Adico, che ritroviamo tra qualche giorno per un nuovo appuntamento. Un saluto a te, Gianluca. Grazie, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.